Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Il problema è che abbiamo paura. Basta guardarci. Viviamo con l'incubo che da un momento all'altro tutto quello che abbiamo costruito possa distruggersi. Con il terrore che il tram su cui siamo possa deragliare. Paura dei bianchi, dei neri, della polizia e dei carabinieri. Con l'angoscia di perdere il lavoro, ma anche di diventare calvi, grassi, gobbi, vecchi, ricchi. Con la paura di perdere i treni, di non arrivare in orario agli appuntamenti. Paura che scoppi una bomba, di rimanere invalidi, paura di perdere un braccio, un occhio, un dito, un dente, un figlio, un foglio. Un foglio su cui avevamo scritto una cosa importantissima. Buongiorno a voi, eccoci di nuovo insieme. Ciascuno di noi si confronta ogni giorno con piccole e grandi paure. Molte di queste impariamo a tenerle sotto controllo, altre invece prendono il controllo su di noi e a quel punto ci sentiamo in trappola. Ci sono paure che irrompono nella nostra vita e non ce lo saremmo mai aspettato, altre che nascono con noi in un certo senso e con le quali impariamo a convivere. Invece ci sono delle paure che ci entrano da fuori, o meglio sono generate dal momento storico, dal contesto di vita in cui ci troviamo. Nonostante però il termine paura abbia spesso una connotazione negativa, anche la paura ha dei lati positivi. Allora, qual è la paura che ci fa bene e quale invece quella che limita la nostra vita? Lo chiedo a voi oggi e ne discuteremo insieme a tanti esperti. 800 24 0024, qui in studio con me il professor Giampaolo Perna. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora inizio, Direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto d'Albese con Cassano e professore all'Università di Maastricht in Olanda. Tra l'altro autore, dopo il successo di Ansia, di un libro che diventa il consiglio di lettura di oggi, si intitola Fobie, edito da PM. Allora, professor Perna, dimmi che paura hai e ti dirò chi sei. Io oggi invito i nostri ascoltatori a chiamarci e a raccontarci, perché le loro paure oggi impareremo a gestire quelle che ci intrappolano, a cavalcare o a fare pace con quelle che invece, al di là di quello che possiamo pensare, possono diventare punti di forza della nostra vita. Perché la paura è bella anche per questo, perché ha tante facce, oltre a esserci tante paure. La paura soprattutto è una delle emozioni cruciali per la sopravvivenza. Non aver paura vuol dire di fatto essere esposto a una serie di rischi e pericoli che portano alla morte. Quindi guai a non aver paura. Sono dei casi in letteratura proprio dove per motivi neurologici l'amigdala è bloccata e in quel caso la persona continua a porsi in situazioni rischiose. Quindi la paura ci protegge, ci aiuta ed è un'emozione estremamente utile. Poi la fobia è un altro discorso. Allora, raccontateci come avete superato una paura, quale strategia avete fatto ricorso e proponetela in diretta ai nostri ascoltatori. Non c'è limite di età e non c'è limite di paura. Potreste anche raccontare una paura che avevate da bambine e che avete imparato a lasciarvi alle spalle. Intanto le paure, dicevamo, professor Perna, sono tante e sono ancora di più le persone che soffrono, che hanno paura. Beh, le paure sono tantissime, innanzitutto perché sono normali, quindi fanno parte del bagaglio di ognuno di noi. Le fobie, in realtà, che sono la parte patologica delle paure, colpiscono moltissimi. Io direi che dire un 10 milioni di italiani che più o meno hanno avuto dei periodi in cui hanno avuto delle fobie vere e proprie ci sono. Ma un vero uomo ammette le sue paure. Questo è ciò che vi chiedo di fare qui stasera. Chi vuole cominciare? La paura, parliamone. Paura, paura? Ho molta paura dei ragni, coach. Beh, non è questo che anch'io, intendevo. Coach, ho paura dei ragni anch'io. Sì, quegli schifosi fanno venire la pelle d'oca anche a me. Le api? Le api? Dove sono le api? Sì, qui nessuno ha paura delle api. C'è qualcuno qui che ha paura di qualcosa che non sia un insetto? Le sabbie mobili. Tu stai giocando e pensi che stia andando tutto bene. Poi una cosa va storta, e poi un'altra, e un'altra. E tu provi a reagire. Ma più cerchi di lottare, più sprofondi, finché non riesci più a muoverti. Non riesci a respirare, perché sei sopraffatto, come nelle sabbie mobili. Qualcos'altro che vi spaventa? Beh, sì, tornare in quel mini market. Il cantiere! La fabbrica! Allora, un vero uomo, quindi una vera donna, ammette, sa, riconosce le paure e le racconta. Voi potete farlo oggi all'800 24 0024, e qua in studio con me il dottor Jacopo Valli, psicologo e psicoterapeuta. Dottor Valli, bentornato. Grazie, buongiorno. Ammettere di avere paura, riconoscere le paure e non aver paura di chiedere aiuto. Questo è un passo importante. Invece spesso si ha timore di confessarlo e di trovare forse anche la soluzione. Sì, in effetti è proprio così. In questo momento in tutta Italia è in atto un progetto che si chiama il Mese della Prevenzione dell'Informazione Psicologica e ha l'obiettivo proprio di aiutare le persone a superare questa paura, cioè la paura di chiedere aiuto. In realtà in tutta Italia appunto per tutto il mese di maggio ci sono dei colloqui psicologici gratuiti a cui è possibile accedere proprio per superare la paura di entrare in terapia, e l'idea è proprio quella di fornire un primo colloquio negli studi oppure a Milano con un progetto ancora speciale seguito dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia, dove le persone possono addirittura richiedere il primo colloquio e accedervi attraverso uno spazio che abbiamo chiamato Temporary Store, che sarà a Milano in via Stampa all'8, cioè un negozio fondamentalmente dove sono stati adibiti degli ambulatori. La paura si supera anche avendo la vicinanza, cioè entrando in uno spazio non così sacro tra virgolette, non così ansiogeno se volete, come uno studio di psicoterapia, ma semplicemente in uno spazio aperto al pubblico sulla strada, dove appunto è possibile avere dei primi colloqui. Anche perché lì. Professor Perna, ma il comune mezzo gaudio a raccontarci le nostre paure, un po' le stemperiamo. Sicuramente sì, innanzitutto il fatto di prendere consapevolezza è il primo passo, perché spesso le paure sono talmente forti che tendiamo a nascondere, tendiamo a non prendere consapevolezza e quindi in qualche maniera evitare il confronto. Ricordiamoci bene che il coraggio nasce dalla capacità di superare le paure, quindi il coraggio non è incoscienza, ma esattamente essere consapevoli di una situazione di paura e avere la forza di superare e affrontarla. Nel breve insert che abbiamo ascoltato si parlava della paura dei ragni. Lei nel suo libro Fobie cita tantissime paure, no? Ci sono le paure e le fobie degli animali, del sangue, delle iniezioni, delle ferite, dell'ambiente naturale, delle fobie istituzionali, situazionali, poi c'è la paura anche di vomitare. Ecco, quali sono quelle più diffuse? C'è un temperamento pauroso? Allora, innanzitutto esiste la tendenza ad avere un maggiore senso del pericolo, quindi esiste un temperamento per cui una persona tende a evitare tutti i rischi, quindi questo è vero, quindi è una base comune. Poi su questo nascono delle fobie vere e proprie che dipendono voi dall'hardware, cioè noi siamo fatti così di natura, per esempio la paura dei ragni è in qualche maniera intrinseca nella storia dell'essere umano, dell'essere vivente, perché è un pericolo. La fobia dei televisori un po' di meno. Quindi l'incontro fra l'individuo predisposto e un evento traumatico riferito a una situazione induce paura e spesso una fobia vera e propria. Il vero problema è che questo poi tende a diffondersi e a limitare l'autonomia e la libertà delle persone. Dottor Valli, ci sono delle paure che ci vengono trasmesse. Ci sono dei bambini che hanno paura degli animali proprio perché le mamme, i genitori, magari a loro volta ne avevano paura e dicono attenzione. Quindi quanto è importante? Quante sono la differenza, vorrei sottolineare, delle paure che nascono con noi, innate, tra virgolette, e quelle che invece ci vengono suggerite da altri, che possono essere i nostri genitori oppure i nostri amici, il nostro partner, delle situazioni o delle persone che in qualche modo ci accendono questa paura, ecco. Sì, diciamo che in generale appunto in riferimento ai bambini, i bambini assorbono i modelli genitoriali, no? Quindi attraverso l'osservazione più che attraverso appunto le parole o la parte razionale. È evidente che se appunto un bambino osserva dei comportamenti in questo caso di paura verso per esempio gli animali come citavi tu, è vero che a loro volta possono assorbirle. Sicuramente secondo me c'è anche una continuità di tipo simbolico, nel senso che se il genitore nutre una paura verso per esempio un animale, un ragno come si citava prima, ecco che probabilmente il bambino assumendo la stessa paura verso lo stesso tipo di animale, probabilmente c'è una trasmissione anche simbolica, quindi un ragno ad esempio a me fa pensare, secondo il mio approccio più analitico, a qualcosa che viene rigettato, a un istinto disgustoso, a qualche cosa che non accettiamo di noi stessi, quindi viene poi gettato nell'ombra e in qualche modo vedere fisicamente un ragno fa sì che questa parte dell'ombra venga stimolata e quindi noi abbiamo paura di una cosa che ci appartiene. Ecco, e questo è, vorrei portarvi proprio la vostra attenzione su questo aspetto che secondo me è interessante, che viene ben sottolineato nel libro del professor Perna, e cioè noi pensiamo di avere paura ad esempio di prendere l'aereo, di volare, ma spesso non è proprio solamente quella la ragione della nostra ansia, di questo coinvolgimento, di questi pensieri negativi che accompagnano quell'atto. Cioè non è l'aereo, non è l'altezza a determinare in verità le nostre paure, ma c'è dell'altro. Allora per questo io vi chiedo proprio di raccontarci le vostre paure e cerchiamo di capire con i nostri esperti se è il ragno, è l'aereo, il sangue, quello che proprio è la causa di questa vostra agitazione, di questo timore, o dietro a questa paura, a volte sono paure innocenti, si nasconde qualcosa d'altro, perché come sempre una volta che abbiamo la possibilità di avere delle indicazioni, ciascuno di noi può elaborarle, no? Pensarci, riflettere, cercare delle soluzioni, tamponare un po' la situazione. 800 24 0024, Donato ci chiama da Salerno. Buongiorno Donato. Buongiorno. Eccoci, siamo qua. Allora, io ho 61 anni, lo premetto, il mio lavoro mi portava sempre a guidare, quindi ho guidato, non so, forse per 40 anni, non lo so. Io ho sempre, cioè, a un certo punto, diversi anni fa, ho cominciato ad avere paura della guida in strada, del passo in autostrada. Questo naturalmente ho cercato anche per necessità di lavoro, perché dovevo guidare. Sì. Ho cercato di fare psicoterapia, l'ho fatto una, due volte, da solo, in gruppo. Ho scavato un po' nelle motivazioni, e questo potrebbero essere delle motivazioni proprio pratiche, perché io ho avuto un inizio di guida andando verso Roma, superando un camion, un signore incosciente con gli abbaglianti mi suonava come che io tenevo una 500, lui teneva una Lancia velocissima, quindi la situazione quindi un po' paurosa. E in un secondo momento, dopo molti anni, sempre in autostrada, un camion mi ha toccato la punta della macchina posteriore, mi ha fatto girare, insomma, ho visto la morte diverse volte. La morte in faccia. Donato, professor Perna, Donato ci racconta una paura che si manifesta più volte e che è nata proprio quasi, no? Senza motivo, in un certo senso, proprio con Donato che era abituato a macinare chilometri. Beh, senza motivo non direi proprio, nel senso che lui ha avuto un rischio, un pericolo, e chiaramente la nostra mente, il nostro cervello cerca di evitare i rischi e i pericoli. Quindi quando noi incontriamo un potenziale pericolo e stiamo rischiando qualcosa, questo messaggio viene stampato nella nostra memoria emotiva e ci ricorda ogni volta che rincontriamo situazioni simili che quello è un potenziale pericolo. Quindi quello che è successo è che lui è stato condizionato ad aver paura dell'automobile, dell'autostrada e così via. La cosa importante, ci sottolinea in questo tipo di fobie, è che probabilmente ci vuole anche un approccio di tipo cognitivo-comportamentale spesso, quindi dipende molto dal tipo di psicoterapia che viene fatta. In questo caso io valuterei con attenzione se è stata fatta una desensibilizzazione comportamentale, cioè vuol dire che qualcuno che ha reinsegnato al nostro Donato ad affrontare l'autostrada senza paura. Ecco, possiamo, di fronte ad un trauma si scatenano in noi delle reazioni, Parliamo anche di traumi molto forti, professor Perna, ne avevamo parlato dopo il terremoto dell'Aquila. Certo. Allora ci sono delle cose da sapere, proprio perché che possono essere messe in pratica da ciascuno di noi. Noi parlavamo del terremoto, ma di fronte ad un trauma grave, che cosa bisogna fare per evitare che questi traumi segnino in modo quasi, no, indelebile la nostra mente? Ci sono dati particolari recenti a riguardo. Cioè, un tempo si pensava che era molto importante parlarne per scaricarsi. Quello che dicono gli ultimi dati scientifici è che fare il cosiddetto debriefing dopo un grave trauma, quindi parliamo non di un semplice incidente o altre cose, parliamo un terremoto, altre cose, sembra che sia qualche cosa che può addirittura imprimere la paura nella memoria, perché oggi stanno discutendo su quale sia l'approccio migliore, se sia quello di scaricare, come dire, l'esperienza, o se sia quello di fare altri approcci. Esistono tecniche, quando si sviluppa il cosiddetto disturbo post-traumatico da stress, che è un disturbo molto grave, che possono essere efficaci, anche un po' particolari, per esempio l'EMDR, una tecnica particolare con movimenti oculari, che in questo disturbo, cioè il disturbo post-traumatico da stress, funziona molto bene, come pure abbiamo degli aiuti farmacologici e degli aiuti di tipo psicoterapico. Però sicuramente quando si va incontro a un trauma molto grosso e si sviluppa il disturbo post-traumatico da stress, siamo di fronte a una condizione severa, importante. Professore, invece lei nel suo libro, io ho provato subito a farlo, suggerisce una sorta di rilassamento muscolare per gestire delle situazioni in cui avvertiamo che la paura sta prendendo il controllo su di noi. Possiamo fare un breve esercizio? Sì, facciamo una piccolissima premessa. Allora, il rilassamento progressivo ha una funzione precisa, cioè quando ne abbiamo paura di qualche cosa e ci avviciniamo alla situazione, aumenta il nostro livello di ansia e tensione e di solito diventa così forte che noi scappiamo. Sì. Allora, quando siamo vicino alla situazione, quindi inizia a salire l'ansia, quello che dobbiamo fare è cercare di abbattere in quel momento la tensione e l'ansia, e possiamo fare questi esercizi. Il rilassamento progressivo muscolare è particolarmente semplice perché si tratta di tendere una muscolatura. Per esempio, noi stringiamo un pugno per 5 secondi in maniera molto forte e poi lo rilasciamo per altri 5-10 secondi. Poi lo facciamo con l'avambraccio, lo facciamo col collo, lo facciamo con tutto il nostro corpo. Quando siamo abituati a far questo, diventa automatica la capacità di rilasciare la tensione. Quindi noi possiamo applicare questo metodo quando siamo in prossimità di una situazione che ci fa molta paura. Questo ci permette di ridurre un filo la tensione e quindi di entrare nella situazione. Quando siamo dentro, il gioco diventa più facile. Quanti di noi sanno che superato il primo momento poi la partita diventa molto più facile? Quell'attimo è importante, in quell'attimo bisogna rilassarsi. Quindi dottor Valli, sì, mi veniva in mente che diciamo l'orientamento che io seguo da 20 anni mette in atto una tecnica che si chiama distensione immaginativa, appunto a focalizzazione corporea, che è molto simile, ossia facciamola, partendo dal corpo, dalla contrazione che viene chiamata contrazione agita seguita da una distensione, ecco che l'individuo riesce a percepire il proprio corpo. Diciamo, se posso dire, lo step successivo, perché questo è un po' come dire un po' interventista, no? In quel momento applico questa tecnica che mentre funziona, che funziona, assolutamente, di questo ne sono convinto perché lo vedo quando io la applico, voglio dire. Diciamo che lo step successivo che noi abbiamo utilizzato appunto è quello di creare delle immagini mentali a partire dalla distensione e dalla contrazione. Quindi successivamente a questo processo proprio meccanico del fisico, ecco che vengono in qualche modo stimolati, invitati alla creazione di immagini dove appunto a livello simbolico dopo in terapia possiamo lavorare. Ciascuno si fa l'immagine, si crea l'immagine che vuole. L'immagine della paura può essere elaborata a livello mentale, perché se noi riusciamo in ambito di uno studio privato o uno studio appunto pubblico far sì che la persona immagini, ecco che noi possiamo lavorare attraverso l'immaginazione a livello profondo dell'inconscio. E pensate che viene in aiuto anche la tecnologia, si parla di cyberterapia. In linea con noi abbiamo la professoressa Alessandra Grassi, che è docente di tecnologia positiva presso la Facoltà di Psicologia all'Università Cattolica di Milano. Professoressa Grassi, buongiorno. Buongiorno. Allora, voi avete un programma che adesso per adesso è dedicato agli studenti, quindi alla prova degli esami, all'università, sappiamo, l'abbiamo provato tutti di fronte ad un esame, oddio non mi ricordo nulla, e poi quella palpitazione, quella la testa vuota. Voi avete proprio ideato un progetto e quindi la tecnologia vi viene in aiuto degli studenti, ma naturalmente ci auguriamo che questo poi, no, possa venire in aiuto anche a chi non ha più esami da superare, universitari, ma gli esami ci sono tutti i giorni, non finiscono mai. Con la professoressa Grassi ci ritroviamo subito dopo il mercati e il meteo, perché voglio proprio capirne di più. Tra l'altro anche una paginona su Repubblico parla di questa tecnologia al servizio del nostro benessere emotivo. E a proposito di benessere emotivo, volete fare un salto nel nostro laboratorio del benessere, il nostro Daily Lab? Ogni giorno i nostri esperti si prendono cura di noi, ci danno dei consigli, dei suggerimenti, delle ideuzze per provare a stare sempre meglio, a mantenerci sempre bene. È molto semplice entrare in questa officina del benessere, basta andare sul sito di Radio 24, www.radio24.it, c'è il Daily Lab, c'è Nicoletta con le mele, cliccate e i nostri esperti sono lì pronti per suggerirvi qualche cosa di buono. Mercati, meteo e a tra poco con la professoressa Alessandra Grassi, che ci spiegherà come, quando e perché la tecnologia può aiutarci a vincere le nostre paure e quindi anche a stare un po' meglio. Essere e benessere. Purtroppo noi, signori miei, conviviamo con la paura. ma non grandi paure. Noi conviviamo con paure un po' più piccole, non abbiamo la paura delle catastrofi. La nostra paura che ci impedisce di vivere è una paura piccola, è una paura nuova, moderna. Non sono le grandi paure, le fobie di una volta, quelle fobie che conoscevamo, che ne so, l'aracnofobia, la paura dei ragni. Non è la paura, diciamo, che ne so, l'agorafobia, la paura degli spazi aperti, oppure la claustrofobia, la paura degli spazi chiusi, oppure l'aerofobia, la paura di volare, da non confondere con l'aerofagia, che è un'altra paura, non tanto per te, ma anche per gli altri negli spazi piccoli. Ecco, per esempio, una paura nuova, una paura che non conoscevamo, è la paura del parcheggio. Sì, torniamo a parlare di paure, di quelle che convivono con noi, di quelle che abbiamo superato, di quelle che invece ci intrappolano. 800 24 00 24, chiamateci, perché uno di voi ha insindacabile giudizio del professor Perna e del dottor Jacopo Valli, potrà ricevere a casa Fobie. Un libro che potrà ricevere chi di voi magari ci suggerisce una strategia vincente per superare la paura, ma anche che chi, a detta dei nostri esperti, oggi potrebbe avere un consiglio, no? Una mano dalla lettura di questo libro. E abbiamo detto che anche la tecnologia ci soccorre in linea con noi. Infatti torniamo a salutare la professoressa Alessandra Grassi, docente di tecnologia positiva presso la Facoltà di Psicologia all'Università Cattolica di Milano. Allora, professoressa Grassi, che cosa state facendo? Ci racconti? Sì, dunque, buongiorno. Noi ci occupiamo di analizzare in che modo le nuove tecnologie possano essere utili per migliorare il benessere e la qualità della vita. Una delle ultime ricerche a cui ho preso parte è proprio finalizzata a insegnare agli studenti, in particolar modo in questo caso agli studenti universitari, a gestire in modo efficace e utilizzando le nuove tecnologie l'ansia da esame. Le nuove tecnologie, quindi lei si riferisce a? Io in particolar modo mi riferisco ad applicazioni per iPhone e iPad, quindi c'è appunto questo sistema basato appunto sull'app che ti permette, diciamo, da una parte di incrementare le tue conoscenze sull'evento stressante, in questo caso in relazione all'esame universitario, quindi che cosa dal punto di vista fisiologico, psicologico e comportamentale mi succede quando io sono in procinto di sostenere un esame universitario, sì. Quindi dall'incrementare la consapevolezza del fatto che mi può tremare la voce, ho delle difficoltà a ricordare magari tutto quello che io ho studiato, a livello più fisiologico la tachicardia, il sudore alle mani. E successivamente, diciamo, accompagniamo lo studente in un percorso di aumento di quelle che sono definite le risorse di coping. Quindi, preso atto di che cosa mi succede durante un evento stressante, durante un esame universitario, in che modo io posso gestire tutti questi cambiamenti personali. Da una parte suggeriamo l'utilizzo delle tecniche di rilassamento, come anche diceva il collega poco fa, sicuramente molto efficaci nella gestione delle ansie e delle paure. E dall'altra anche suggeriamo allo studente di riconsiderare per esempio il proprio metodo di studio, suggerendo anche delle così efficaci tecniche per migliorare la performance scolastica. Vi rimando al sito www.nonhopaura.com. Belli fortunatelli questi nuovi universi. Oh no, professoressa, sono stati accompagnati non male, direi. Caspita, sì, non hanno più scuse, guardi, devono studiare, ecco, per forza. Ecco, questo è l'altro lato della medaglia, perché uno non può neanche più dire ero così preparato, ma poi mi è venuta una botta di paura, esatto. E non mi è venuta più. Diamo una mano a gestire anche quello, adesso vedremo che cosa si inventeranno. Grazie professoressa Grassi per essere grazie stata con noi. Professor buona Perna, giornata. Grazie. Buona giornata, grazie. Cyberterapia. Beh, è una parola immensa questa, perché tiene dentro tutta una serie di potenzialità per il futuro. Pensiamo alla realtà virtuale anche, che viene utilizzata con successo per affrontare delle fobie. Noi sappiamo che ci sono addirittura delle compagnie aeree che utilizzano degli ambienti virtuali proprio per affrontare la fobia del volo. Questo perché uno si ritrova nella situazione. Pensiamo anche ai film oggi. Oggi sono i film in 3D. Immaginate un futuro in cui potete riprodurre una situazione, un ambiente che temete in 3D, magari davanti al televisore di casa vostra. Quindi ci sono delle opportunità in futuro per superare le fobie molto grosse proprio con la cyberterapia. Alessandra ci chiama dalla provincia di Vicenza, poi abbiamo Draga da Milano e Marino, sempre da Milano. Facciamo un giro di telefonate, 800 24 00 24. Alessandra, buongiorno. Buongiorno a lei. Intanto complimenti per la trasmissione che oggi è fantastica. Grazie. Prego. E niente, volevo portare la mia esperienza. Da piccola io non ho mai parlato, praticamente fino alla terza media non aprivo bocca in pubblico, sì. Mi vergognavo tantissimo. E stessa cosa, interrogazioni a scuola, diventavo ovviamente rossa come un peperone e ero così agitata che vedevo il cuore che mi batteva, lo vedevo proprio da fuori. Ecco, adesso vabbè, è cambiata la cosa, non è successo niente in realtà, solo che di solito io ho imparato ad ascoltare la mia voce, ascolto il modo in cui parlo e cerco di rilassarmi facendo questo. Mi rendo conto che rallento o velocizzo anche il mio modo di parlare, o alzo o abbasso il tono a seconda di quello che reputo vada bene, e mi sembra che più o meno funzioni. Ecco, non brava ho più Alessandra che condivide con noi questa strategia. Dottor Valli? Rimasto senza parole. No. A proposito di voce. No, mi sembra una buona strategia e mi chiedo appunto, l'unico, diciamo, la perplessità che mi è sorta quando appunto parlava era non è successo nulla ed improvvisamente questa cosa si è un po' sciolta con questa tecnica che all'apparenza sembra molto semplice. Va bene, però appunto provare, mi chiedo se è così realmente. Draga da Milano, buongiorno. Buongiorno. Che non, ci racconti, ha paura o l'ha superata? O l'è venuta, no, se parlandone? No. Io tutta la vita ho paura del buio. Diciamo che ho paura del buio totale. Mi terrorizzo l'idea proprio di rimanere da sola in un luogo dove non ho la possibilità di accendere la luce. Sì. E quindi di notte lascio sempre la luce accesa da qualche parte, di solito in bagno, quindi... In camera entra, diciamo, una piccola lucina e quindi mi basta. E molto spesso succede che durante la notte comincio a sognare incubi e mi sveglio e mi rendo conto che c'è buio totale. Perché qualcuno è andato in bagno e ha spento la luce. Ma chi è che fa questi scherzi, Draga, a casa sua? Perché se ci sono delle paure, lo chiedo ai miei esperti, a cui serve così poco, ad esempio come la lucina del bagno, che ci rassicurano, possiamo tenercela o dobbiamo incaponirci e togliercela? Dottor Valli, il teniamola, buio, teniamola assolutamente, non credo che dobbiamo mettere ogni strategia... un cartello in bagno. Sì, ogni strategia è valida, dico questo, che le strategie, come dire, così immediate vanno bene. Penso che probabilmente c'è dell'altro, insomma, se la persona, ecco, dice che ha una serie di incubi, ha questa paura così, insomma, importante, no? Per un buio totale, mi chiedo, ripeto, che cosa possa rappresentare per la persona, no? Spesso il buio è, come dire, sinonimo di inconscio, per cui chissà, non lo so, insomma, ecco. Non si sa mai in queste cose se tenerci in superficie o andare a fondo. Entrambe le cose, entrambe, sai? Mettiamo, sì, allunghiamo un, sì, piede, entrambe, come quando... Sono due gambe, io credo, no? Nel senso che non è possibile camminare con una gamba sola. È necessario a volte rimanere a un livello più di superficie per l'immediatezza e poi quando vediamo che questa gamba in qualche modo non riesce a fare il passo successivo, utilizzare l'altra e avere una maggiore profondità. Ma quante ne sanno? 800 24 00 24. Paolo Corleone in regia mi dice che è tempo già di dare le informazioni sul traffico. Noi torniamo subito dopo con le vostre telefonate. A tra poco. Essere e benessere. Niente paura. Niente paura. Ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. E da Ligabue a Marino, da Milano. Buongiorno Marino. Buongiorno, buongiorno. Anch'io complimenti per il tema. Senta, volevo dire questo a questo professore. Allora, io ho cominciato ad avere attacchi di panico quando avevo 12 anni, mi ricordo proprio il giorno, mi ricordo come è successo, poi nell'andare avanti dopo i 24 anni, così qualcosa di turbolento, mi si è ripresentato questo stato d'ansia, paura di entrare nella cabina telefonica, paura di entrare nelle gallerie, poi piano piano ho vinto queste cose, adesso addirittura in galleria mi sento protetto, non ho vinto il fatto di andare sull'aereo, però questo non è tanto. Quello che volevo dire, volevo chiedere questo, perché, visto che ormai è diventata una materia all'ordine del giorno, perché vuoi lo stress, vuoi, perché nelle scuole non prepariamo invece i nostri ragazzi a combattere qualcosa che comunque arriverà un po' come le tasse? Mm. Ecco, era questa la mia. Grazie Marino, arriverà, ma magari con intensità diverse, forse si produrrebbe un'ansia anticipatoria, non lo so, professor Perna. Ma bisogna stare molto, molto attenti, perché dietro le reazioni di paura e le fobie si possono nascondere condizioni mediche vere e proprie, cioè il disturbo d'attacchi di panico è uno dei disturbi più medici della psichiatria, ovvero uno ha un sistema di allarme nel nostro cervello che funziona male, a un certo punto esplode quel meccanismo del panico. È ovvio che poi la persona si difende con la paura e con l'ansia. Io credo che l'ascoltatore abbia centrato una cosa importante, cioè è fondamentale fare una adeguata informazione riguardo a queste cose, perché un conto è prendere una fobia, un'ansia, una paura patologica all'inizio del suo sviluppo, è più facile superare, un conto è prendere una persona che per 10 anni è convissuto e plasmato la propria vita in questo è molto delicato, dobbiamo fare un'azione di informazione molto attenta e basata anche sulla scientificità. Questo è molto importante, perché esistono alcune cose che sono dimostrate in maniera inequivocabile, altre che sono più delle idee. Io credo che sia importante informare correttamente e scientificamente la popolazione giovane. Quindi un messaggio che possiamo dare ai nostri ascoltatori riguardo all'informazione corretta, quale può essere? Che la paura, se ti intrappola, poi dalla paura che ti intrappola puoi liberartene. Sì, intanto si può uscire sempre da una fobia, bisogna trovare le tecniche corrette, no? Il secondo punto importante è ricordarsi che non sempre la paura o la fobia è dovuta a dei fattori profondi, talvolta può essere anche l'incontro con un evento traumatico che ci spaventa a morte e ci innesca questa fobia. L'altra cosa che vorrei sottolineare, che credo che sia importante, è che esistono tecniche, e quella cognitivo-comportamentale e quella forse più validata scientificamente, che permettono di risolvere rapidamente il problema delle fobie. Poi in taluni casi ci fossero altre cose da affrontare, si un va altro più discorso. A fondo quelle due gambe a cui faceva riferimento il dottor sì, Valli. Io, se posso dare invece un consiglio relativamente a come preparare i ragazzi, no? Il telespettatore, il radiospettatore diceva proprio questo, da un punto di vista invece diciamo analitico, io direi che per evitare, no, un futuro di ansia, di attacchi, di panico, vivere la propria vita sentendo quello che l'individuo sente, perché simbolicamente l'attacco di panico è questo, è mimare i prodromi, cioè i primi sintomi di un infarto per rinascere, quindi l'individuo simbolicamente desidera morire nella vita che sta conducendo per rinascere a nuova vita. Se l'individuo fa già la vita che sente autenticamente, ecco, non c'è attacco di panico. E tra le paure c'è sicuramente quella di ammalarsi, di affrontare un intervento e un ricovero, ma la ricerca, che è sempre più attenta alla qualità di vita del paziente, sta ora cercando nuove soluzioni. Una di queste ve la voglio far raccontare dal professor Alberto Luini, che abbiamo il piacere di avere in linea con noi, direttore della divisione di senologia all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Professor Luini, buongiorno e grazie. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Mi fa piacere poter così comunicare gli sviluppi della chirurgia senologica, in particolare della chirurgia senologica oncologica, in day hospital, in day surgery, cioè con interventi che vengono effettuati al mattino nell'arco della giornata, e in cui il paziente viene dimesso alla sera stessa, quindi una forma diciamo molto innovativa che consente però al paziente di ritornare a casa lo stesso giorno, perché uno degli elementi traumatici, oltre alla diagnosi di una malattia tumorale, è anche il fatto di dover lasciare la casa, lasciare gli affetti, ricoverarsi con l'incertezza di rimanere magari in ospedale alcuni giorni. E questa è una soluzione che è molto apprezzata dalle pazienti. Inoltre dobbiamo dire che oggi fortunatamente, siccome si scoprono delle lesioni sempre più piccole, in molti casi addirittura non palpabili, anche la chirurgia del seno si è adeguata a questa nuova realtà, e quindi gli interventi sono degli interventi molto più mirati, si fa una piccola resezione mammaria, si asporta magari solo un linfonodo, il linfonodo sentinella, che fortunatamente in tumori piccoli e nella maggior parte dei casi indenni, e oggi a questa procedura chirurgica si può associare anche la radioterapia fatta direttamente durante l'intervento. Il fatto innovativo è di poter fare questa radioterapia nell'ambito di questo ricovero giornaliero. Di questo devo dire siamo particolarmente contenti e fieri, perché abbiamo iniziato anche questa procedura da poche settimane. Professor Luini, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. E noi siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, in cui abbiamo un po', no? sviscerato il problema delle paure. I nostri esperti hanno deciso di consegnare, di far ricevere a casa Fobie, del professor Perna, che è qua in studio con noi, PM Edizioni, a Draga da Milano, l'ascoltatrice che racconta di aver paura del buio, e quindi con l'invito: metta però un cartellino in bagno, vietato spegnere la luce. Questo consiglio glielo do io. Ringrazio i nostri esperti, il professor Perna e il dottor Jacopo Valli. Appuntamento a domani. Un saluto anche e un ringraziamento a Laura Vanossi in redazione, a Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica. Buonissima giornata da Nicoletta. Essere e benessere.